L'idea di partenza è proprio quella di ragionare. Siamo partiti dal senso di presente molto molto faticoso, per usare un eufemismo, che viviamo, e quindi questa cosa ha che tipi di futuri si traduce. Molto spesso noi ci immaginiamo dei futuri molto cupi, catastrofici, distopici. L'idea di questo festival è quello di proporre invece un'alternativa, non per essere così ottimisti, ma per dire: forse non dovremmo guardare davanti a noi, dovremmo guardare di lato a noi e vedere che come realtà non c'è un mondo che noi abitiamo, ma c'è una pluralità di mondi che noi abitiamo, e alcuni di questi, molti di questi, noi ne teniamo minimamente in considerazione. Quindi il programma del festival, ogni singolo incontro, ogni singola mostra, è la proposta di una possibilità di sguardo. Il festival avrà luogo dal 19 al 23 novembre, le proposte sono veramente tante, raccontiamone alcune. L'inaugurazione del festival mercoledì sarà quella della mostra Riflesso Fantasma di due giovani artisti, Dario Sostegni e Beatrice Berenice Moté de Narbonne, all'Accademia di Belle Arti, e con quello si dà il via ufficialmente al festival. La giornata di giovedì è tutta dedicata a una grandissima maestra del fumetto e dell'illustrazione francese che per la prima volta viene mostrata in Italia, che è Nicole Clavelou, e quindi ci sarà sia una giornata di studi in Sala Borsa e all'Accademia di Belle Arti, sia poi l'inaugurazione all'ex chiesa di San Mattia. Da venerdì ci si sposta invece al DAS, dove ci saranno tutti gli incontri con tutti gli ospiti nazionali e internazionali del festival. Infatti ho visto c'è una giornata di conversazione accanto e c'è anche un incontro dedicato alla poesia visiva. Sì, assolutamente. La poesia visiva è l'esito di un workshop che coinvolgerà 12 studenti e studentesse della Accademia di Belle Arti con una ospite internazionale del festival che si chiama Lika Nusli, e ragioneranno proprio su come è possibile trasformare in segno, quindi in immagine, una dimensione lirica, una dimensione poetica. E anche in questo caso non si tratta, quindi si tratta di andare alla scoperta, di esplorare attraverso il gesto e il segno forme che quasi si riconoscono dopo che si sono fatte. Ma poesia visiva collega anche il cinema d'animazione di Roberto Catani, ad esempio, al quale dedichiamo un integrale rassegna grazie alla collaborazione con la Cineteca, che è un grandissimo maestro della nostra animazione, troppo poco conosciuto, e che quindi vogliamo mostrare a un pubblico di occhi aperti.